L'alfabeto. Ma sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui che si immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo, parlare con quelli che son nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a 1.000 e 10.000 anni? E con qual facilità? Con i vari accozzamenti di 20 caratteruzzi sopra una carta. Galileo Galilei.